scoprire come gli esseri umani sono in grado di farsi male, molto male, ferirsi gravemente, parentesi, soprattutto quando dicono di amarsi, eh? Quindi quando qualcuno vi dice ti amo, abbiate l'accortezza di prendere la giusta distanza, abbiate sempre una via di fuga, una porta aperta ci deve essere, perché altrimenti se voi credete a questa menzogna, come fa un essere umano a dirvi che vi ama quando è fatto di frammenti e pezzettini? Dovreste chiedere, sì, io ti credo, però dovresti dirmi, caro o cara, quale frammento di te dice questo? E la persona direbbe, ah, io tutto io, sì. E che età? Ah, la mia età, bene. Non c'è nessun altro dentro di te? Vogliamo bussare a vedere se c'è qualcun altro? No, no, io sono così. Bene, passa un giorno, la persona è completamente un'altra. E quell'altra dov'era? Semplicemente non era presente in quel momento, era andata al bagno. Oh, capite di cosa parliamo? Quindi, finché non capiamo che la nostra natura, vediamo se ce la faccio, non è questa. Io dico sì, o dico sì, e il sì è sì, magari, oppure no, e no. Ah, facile, no? La mia è così. Guardate cosa succede. Dico sì, e guardate qua sotto cosa c'è. Nascosto qua sotto c'è no, c'è ni, c'è bu. Ecco, allora quest'altro ingenuo essere umano che è qua riceve questo messaggio che gli dice ti amo, tutto contento. Che fa? Va subito a dirlo agli amichetti, guarda, fa un bel cerchietto, che bello, tutti contenti, ecco, passa una settimana e questo ritorna agli amichetti che è così e questi dicono che ti è successo? Non lo so, dice questa persona che chiameremo A, ha cambiato tutto, e cioè ha detto B, cioè è un'altra, no, è la stessa. Come fai a dire che è la stessa? È bionda, ha gli occhi azzurri, fatta in quel modo, ma è la stessa, cioè una settimana dici una cosa, la settimana dopo tutto opposto, no, è che la prima settimana è uscita questa configurazione mente, cuore, corpo, cervello, la seconda settimana si è attivata questa. Per molti esseri umani ingenui che credono che, che appunto la loro specie sia fatta così, fatta di una freccetta sola, ci rimangono male, tanto male ci rimangono, e allora poi si confidano con gli amici, dicono mi è successo questo, mi è successo quell'altro, e di qua e di là. Ora, molte volte le cose non sono mica tanto nascoste, sapete? Quando la persona spesso dice sì, c'è metà del corpo che dice no, e lo dice già, solo che questo, che gli fa tanto piacere sentire sì, che fa? Cancella tutto quello che potrebbe vedere benissimo che già dice no. Vi è comprensibile questo? Ecco perché non possiamo mai dar troppo la responsabilità agli altri di quello che succede, perché certo la nostra mente conscia si è focalizzata sul sì perché gli conveniva, ha fatto i suoi calcoli. L'inconscio, cioè tutto l'insieme della persona, la parte, tutto l'insieme della psiche, ha visto tutto. Ha visto sia il sì che il no, che il ni, che manco a morire e così via. L'ha già visto. E infatti di solito cosa succede? Che queste informazioni, sapete dove vengono fuori? Dai sogni. Nei sogni la persona tira fuori, l'inconscio tira fuori le informazioni che la mente conscia di giorno ha voluto comprimere, perché non gli conveniva saperle. Ok? Ora, adesso vorrei farvi una domanda. Questo è l'ABC per poter far parte della specie umana senza pericolo grave. Ecco, quindi una scuola sensata non dovrebbe far passare la prima elementare senza che queste cose siano arcinote, perché sennò gli esseri umani soffrono. Soffrono perché credono di appartenere a una specie mentre appartengono a un'altra. Non siamo fatti in modo unitario. Quindi tu hai la mamma A, che ti piace da morire, di cui sei innamorato, purtroppo c'hai anche la mamma B, C, D, e sono tutte nello stesso corpo fisico. Come facciamo? Ma a me piace la mamma A e io pretendo che ci sia solo la mamma A. E beh, è una bella pretesa, c'è anche B, C, D, E. Che ne facciamo? Ecco, capite che per un bambino piccolo è dura ammettere sta roba, capito? Immaginare che una madre possa essere aggressiva e sadica nei confronti di un bambino è qualcosa che difficilmente si sopporta. Purtroppo però è la verità. Ma perché tutto questo avviene? Perché viviamo in una cultura che ha deciso di ignorare completamente ciò che conosce. Perché non è rilevante ai fini della produzione della ricchezza materiale. Anzi, più ci incasiniamo, meglio è. Vedi, invece, noi oggi siamo costretti dalle situazioni esterne a riflettere su chi siamo, capirci, venire a patti con la nostra antropologia, sapere che noi siamo un essere in formazione. La grande differenza che c'è tra noi e qualunque altro animale è molto semplice. Ne prendo uno a caso che conoscete tutti, un bel topo. Bene, un topo è piccolo, poi cresce e diventa adulto. Il topo adulto, sapete che caratteristica ha? È autentico. Al posto del topo ci potete mettere qualunque animale, un cercopiteco, una procavia, un pangolino, un licaone, quindi pare, uguale. Qual è la differenza con l'essere umano? Eccolo qua. Che l'essere umano è piccolo, cresce, diventa adulto e sapete cos'è? Non autentico. Che vuol dire autentico? Che è se stesso. L'essere umano cos'è? Non è se stesso. Perché non è se stesso? Perché è fatto così. E chi è? Che affidamento posso fare su questa voce? Se poi c'è anche questa, c'è anche questa, magari questa si esprime con le parole, questa si esprime con alcune parole all'interno delle quelle, magari qualche lapsus, poi c'è questa che si esprime con la postura, c'è questa qui che si esprime con la posizione delle gambe. Se l'essere umano non è autentico, vuol dire che se non è se stesso, vuol dire anche un'altra cosa, che è alienato. Da dove? Da sé. Ma essere alienati da sé è un bel disagio, eh? Perché vuol dire che vive nella finzione, o se volete, nella maschera, cioè esibisce esternamente qualcosa che non corrisponde alla verità interna. Non sto dicendo che tutto quello che esibisce è falso, sto dicendo che quello che dice è vero solo in parte, perché ci sono zone dentro di lui che la pensa in modo completamente diverso. Noi amiamo i genitori, nello stesso tempo li detestiamo cordialmente. Capito? Per cui, se ci comportiamo in modo da amarli, ci sarà una parte che li odia, che è incazzata. Se li odiamo, ci lasciamo andare a quello, c'è la parte che li ama, che soffre. Ecco. E allora, che famo? cari amici, siamo in quello che si chiama anche doppio legame. Io amo, nello stesso tempo odio. Quindi, ho modo di fare due errori. Amare, facendo incavolare la parte che non ama affatto, oppure odiare, facendo soffrire la parte che invece ama. Quindi non c'è problema. Quando uno si pone tanti problemi su come decidere, decidete quel che vi pare, tanto sbagliate sempre. Questa sicurezza che tanto sbagliamo ci dovrebbe dare tranquillità. Per cui i più fessi di tutti, sapete chi sono? Sono gli ossessivi. Quelli sono veramente cretini. Perché in una situazione del genere, anziché arrendersi, dice: oh, sono fatto così. Faccio parte di questa specie disgraziatissima. Per cui tira sorte. Oggi odio e domani amo. Affanculo. Oppure mi gira così. Tanto comunque sbaglierei. Invece l'ossessivo c'ha un'idea in testa che è la più cretina che gli esseri umani hanno mai sviluppato. Questa è la più stupida del creato. Che è: devo fare, guardate, sentite, la scelta migliore. Rispetto a cosa? In assoluto. Cioè, in pratica, sono dei perfezionisti. Quindi, quando pensano di dire una cosa, se trattengono perché dicono: no, non va abbastanza bene, allora dico un'altra. Infatti, quando parlano, vi dicono: allora, tra parentesi, avrei voluto dirti che, un momento, però ci penso, aspetta, allora, sì, ti stavo dicendo che, fanno dei discorsi complicatissimi. E molti di queste persone diventano poi intellettuali conosciuti, scrivono dei libri che gli studenti devono studiare. Ci sono dei libri giuridici che c'è da impazzire, eh? C'è il testo, una parentesi, dentro la parentesi un'altra parentesi che rinvia una citazione. Perché? Perché per loro devono essere inappuntabili. Ora, rinunciaci, c'è una testa di minchia fatta in tanti frammenti, ammettilo e dire una cazzata per volta, è molto meglio, no? Però capisci, lì c'è tutto il tema che adesso stamattina dobbiamo imparare, che è l'attaccamento all'immagine. Siccome nessuno fa piacere appare fesso, per appare intelligente uno fa quelle cose lì, ma per chi le conosce appare fesso uguale, eh? Anzi ancora peggio, perché se tu mi dici una cazzata, almeno la spari, almeno dico, c'è onestà. Invece mi dici una cazzata e la copri di infinite altre minchiate, è peggio, no? Ecco. Che cos'è la maschera? La maschera è quella cosa che indossiamo per cercare di ottenere il giudizio favorevole degli altri. Ma se può essere più scemi? Ma come fai a ottenere il giudizio favorevole di un altro che è fatto di pezzi diversi? Magari un pezzettino lo ottieni il giudizio positivo, ma degli altri pezzi no. È tempo sprecato. Allora, gran parte della nostra vita, e i grandi pensatori, cito per tutti Simone Weil, dice: la sofferenza umana è in gran parte sofferenza, o quasi tutta sofferenza, da paura del giudizio degli altri. Allora, se la mia benessere lo metto in mano al giudizio degli altri, sapete che fine faccio? Eccolo qua. Ecco qua. Finisco così. Questo è il giudizio. E questo sono io. Sono sottomesso al giudizio degli altri, cioè sono prigioniero. Ma prigioniero, l'origine di prigionia, prigione, viene da captivus, che vuol dire cattivo. Quindi se sono in prigione divento cattivo, non buono. Quindi quando noi temiamo il giudizio degli altri, una cosa è certa, che siamo degli stronzi, punto. È inutile pensarsi gli altri sono stronzi, sicuro che lo siamo noi, perché se non fossimo un branco di stronzi, il giudizio degli altri non ci toccherebbe neppure. E mi fermo qua. Un minuto di riflessione. Se non fossimo un branco di stronzi, il giudizio degli altri non ci toccherebbe.